di Enea, storie di nuovi italiani, di Valentina Furlanetto. Se fossi su un altro pianeta. Buon pomeriggio, benvenuti e bentornati ai Figli di Enea. Io do subito il benvenuto all'ospite di oggi, che è una giovanissima velocista e ostacolista italiana, un'atleta italiana di origini nigeriane, Ayomide Folorunso. Benvenuta, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, ciao a tutti. Allora, campionessa europea under 23 nei 400 metri ostacoli, lo ricordiamo tutti, è stata finalista olimpica con la staffetta 4 per 400 metri ai Giochi Olimpici di Rio nel 2016 e poi ha partecipato anche al libro Viva la Costituzione di Andrea Franzoso. Sono la protagonista del capitolo numero 13, sì? Che è il capitolo si intitola Tricolore, e quindi Andrea parla della mia storia, e, perché comunque anche lui è rimasto colpito dalla famosa foto il 2018 di Tarragona, e quindi io intervengo in questo senso, vi invito tutti vivamente di leggere, e perché rende veramente vivo quello che è la Costituzione, che è una cosa che dovremmo tutti conoscere, ed è scritto molto bene perché non è, diciamo, presentato in un solito modo scolastico, che potrebbe anche risultare un po' pesante ai ragazzi, però viene veramente vivo attraverso il racconto di personaggi e delle loro storie, e quindi le parole della Costituzione, la democrazia, il colore, la memoria, tante altre le parole che ha scelto Andrea Franzoso con molta cura, diventano delle cose reali, diventano delle cose vive, ed è importante continuare a tenere vivo questa cosa. Ecco, dobbiamo sempre rimanere vigili in modo che non cadiamo di errori del passato, perché è un attimo. È un attimo. Tu mi parli, io ti guardo e prendo il volo sopra questa sedia. Perché oltre alla mia storia, ho letto tutto il libro, sono rimasta colpita anche da tutte le storie in realtà del libro, in particolare la storia di Maschieri, che era un signore che lavorava particolarmente, che produceva mine, no? E un giorno il suo figlio gli chiede: ma papà, sei un assassino? E queste parole che mi hanno veramente fatto riflettere e pensare, sì, la colpa non è soltanto di chi va in guerra, no? Produrre mine fa parte comunque di tutto un meccanismo, e questo fa riflettere, no? Quindi non è soltanto chi dice ma io non sto facendo questa cosa, ma anche il far parte del meccanismo, o anche girarsi dall'altra parte quando si potrebbe intervenire, è comunque far parte di un meccanismo che potremmo comunque cambiare, se possiamo, se abbiamo la volontà di cambiare, possiamo cambiarlo, ecco. Dove sei? Stavo cercando di vederti in mezzo a tutta questa folla. Lo riconoscerei il tuo nome tra quasi 8 miliardi di persone. Dove sei? Dovrei tornare a casa adesso, ma se non ci sei non ne ho voglia. La sua storia non nasce in Italia, lei è nata in Nigeria, in una zona della Nigeria sud-ovest, se non sbaglio, poi è arrivata in Italia quando era bambina. Ci racconti un po' com'è andata? Sì, cioè sono arrivata in Italia ormai tanto tempo fa. Nel 2004 ho raggiunto mia mamma, che è venuto qua per cercare comunque di lavoro, era una neolaureata e c'erano pochi sbocchi lavorativi, quindi è venuta in Italia sperando di trovare uno sbocco lavorativo che non c'era in Nigeria, e l'abbiamo raggiunta qua, abbiamo messo alla mia mamma e mio papà, e da allora ho cominciato e ho continuato a vivere in Italia, e sono cresciuta, sono andata a scuola, ho scoperto l'atletica, ho fatto amicizie, insomma ho vissuto una vita di una normale ragazza, e sono cresciuta nella mia cittadina a Fidenza. A Fidenza ho avuto la fortuna, sì, di incontrare Fratistoli, che era il mio allora professore di ginnastica e ancora il mio attuale allenatore, che mi ha introdotto all'atletica, mi ha allenata, mi ci ha fatto appassionare, insieme abbiamo raggiunto dei bellissimi risultati e ho avuto anche 5 anni fa il privilegio di poter anche vestire la maglia delle Fiamme Oro alla Polizia di Stato, che considero tuttora che è tuttora il mio club di appartenenza, e quindi vesto la maglia azzurra, vesto la maglia delle Fiamme Oro e l'atletica è diventata a tutti gli effetti il mio lavoro, però continuo lo stesso a studiare e frequento l'università a Parma, studio medicina e quindi sono ancora una, mi considero una giovane ragazza che sta tentando di realizzare i propri sogni, ecco, un po' come tanti altri ragazzi della mia età. Aveva 8 anni quando è arrivata, si ricorda il primo giorno in Italia, che impressione ha avuto? Beh, in realtà non tanto favorevole, faceva molto freddo, era completamente diverso, e beh, ero molto piccola, e i ricordi si fanno sempre più sbiaditi. Fa molto molto freddo perché sono arrivata nel pieno dell'inverno e francamente il freddo lo fa per me. Nonostante tutti questi anni vissuti in Italia, ogni volta che ritorno all'inverno sono oh mio Dio. Fa proprio freddo, però per fortuna le stagioni cambiano e prima o poi arriverà anche l'estate, la primavera. Ecco. Aveva, se non sbaglio, 8 anni quando è arrivata, quindi faceva le elementari. Anni compiuti, tra l'altro. E però in contrasto al freddo che c'era fuori, avevo tutto il calore della mia famiglia che riabbracciavo e anche di nuovi componenti della famiglia che ancora non conoscevo, come i miei cugini che, o mia zia che comunque anche lei vive in Italia da un sacco di tempo, quindi insomma. E la mamma da quanto tempo non la vedeva? 3 anni circa. Ero piccola, sono stata accudita da altri componenti della famiglia, da papà, da zii, da zie, da cugini, ma la mamma era lontana e la sentiva al telefono. Cioè sono stati dei sacrifici sicuramente, che magari solo adesso che sono più grande realizzo come deve essere stato pesante per lei. Beh, io ero piccola, una certa ti abitui alla fine un pochino, capisci, vabbè, la mamma è lontana, sai che avevo capito che era andata a fare un lungo viaggio e prima o poi saremmo andati a trovarla. Potevo un attimino mettermi un po' di più nei panni di mia mamma e capire quanto è stato veramente difficile, quanto è difficile per una mamma lasciare propri figli e comunque separarsi dalla famiglia, quindi, ma questi sono sacrifici comuni, fa parte della mia storia ma fa parte anche di tante altre storie. Senz'altro, però in questo momento anche storico in cui i ragazzini magari vivono con insofferenza le imposizioni di chiusura per il coronavirus, penso che sia importante anche capire che ci sono tanti sacrifici che tanti bambini fanno, sì, e che poi si va avanti. Esatto. Sì, esatto, e a volte ci sono dei sacrifici da fare e non si può fare altrimenti. La cosa a cui che potrebbe magari aiutare è pensare che non durerà per sempre, ecco, questa cosa. È difficile intanto che la si vive, però bisogna cercare il più possibile di proiettarsi con lo sguardo un pochino più avanti, pensare che fino a, se lo gestisco bene adesso, e il dopo sarà un po' più splendido, quindi teniamo duro che non sarà per sempre, ecco. E poi finisce sempre così, che poi finisce sempre sì, e poi finisce sempre così, non ci si vuole più bene. La mamma era laureata in Nigeria e non trovava lavoro. In Italia è stato più facile? No, in realtà lei sperava di trovare un lavoro nel suo stesso campo, anzi, devo dire che certe volte penso che la storia di mia mamma sia molto più interessante e curiosa della mia, perché davvero ha vissuto tutto l'iter e cose, storie incredibili che anch'io, grande come sono adesso, le sto ancora scoprendo. E praticamente è partita sperando, perché lei è laureata in scienze e tecnologie alimentari e non trovava lavoro, è venuta in Italia, Italia patria del cibo, vuoi non trovare il lavoro in scienze e tecnologie alimentari, però alla fine non ha trovato lavoro in quello, ha fatto dei lavori molto più umili e ha lavorato in fabbrica, ha lavorato per tantissimi anni in, nell'assistenza sociale, soprattutto come è qualificata come operatrice sociosanitaria, quindi lavora negli alberghi menzionati, case di riposo, insomma questi tipi di lavoro. Però lei per anni le bruciava dentro questo questa sua passione, perché alla fine lei ha studiato quello e avrebbe sempre voluto lavorare in quell'ambito, e dopo tanti anni, con una bella spinta, sono orgogliosa di dire che sono riuscita a dare una spinta finale, è tornata a scuola a studiare, perché comunque la sua laurea purtroppo non valeva, diciamo, in Italia sono delle cose burocratiche. Qualche anno fa ha deciso di rivisitare questo suo sogno nel cassetto, e la sua laurea conseguita nel lontano 1994, se non sbaglio, è stata riconosciuta alla fine come una sorta di triennale, anche se lei era effettivamente laureata magistrale e tutto, però vabbè, c'è domani di niente. E questo dicembre si laurea con la laurea italiana, sbaglia tutti gli effetti, scienze e tecnologie alimentari, quindi è diventata una studentessa come me, alla sua, non più giovanissima, però anche se la vedi non diresti mai che all'età che ha, però sì, insomma, almeno la carta d'identità non mente. Una persona molto caparbia. Quindi davvero, quando si parla di me, certe volte sono tipo, dovresti conoscere mia mamma. E mamma Maria, ma che cosa ha fatto quindi in questi 3 anni per mantenersi in Italia? Avrà fatto altri lavori? Ha lavorato fin da subito, voleva essere indipendente, trovare lavoro, trovare casa e far modo che avere le carte pronte per poterci portare con sé, ecco. E quindi ho trovato modo di imparare l'italiano, andare a scuole serali piuttosto che quelle offerte dai vari comunque organizzazioni che comunque aiutano gli stranieri appena arrivati in Italia. So che non è stato un cammino facile certe volte, però insomma è stata tosta. Tu mi parli, io ti guardo come se fossi su un altro pianeta. Siamo così diversi, così distanti, che non so più nemmeno chi ho davanti. Puoi confondere anche gli altri, sì, ma no. Quando sono arrivata ero l'unica ragazza con una pelle molto molto abbronzata in tutta una scuola di non so quante anime. Sì, è stato molto particolare vedere questo fiume di ragazzi così diversi. Io ero affascinata da loro, certi versi loro erano affascinati da me. Io ho avuto la fortuna alla fine di essere una ragazza abbastanza pronta alla chiacchiera, e quindi il mio bisogno proprio viscerale di voler comunicare mi ha portato già in pochissimo tempo a masticare l'italiano, e sono una che legge tantissimo, e quindi passo passato ore in biblioteca a leggere con il dizionario di fianco, e parlavo già, cercavo di masticare l'italiano già con quei compagni che parlavano un pochino di inglese, perché insomma l'inglese si studia a scuola, però insomma, a livello scolastico ho trovato per fortuna qualche ragazzina, soprattutto nelle femminucce erano un po' più aperte, e da lì masticavo un po', facevamo uno scambio culturale, io le insegnavo un po' di inglese, loro mi insegnavano un po' di italiano, poi comunque quando si giocava, per fortuna il gioco è un linguaggio abbastanza universale, quindi tra bambini il gioco è universale, è un linguaggio abbastanza universale. Da lì ho cominciato a tessere relazioni. Ci dobbiamo fermare un istante perché c'è una piccola pausa, ma torniamo con lei tra pochissimo. Va bene. I figli di Enea. Torniamo in studio con Yomide Folorunso, che è in collegamento con noi, è un'atleta italiana che stiamo imparando a conoscere, è anche un futuro medico. Come sta vivendo questo momento? Allora, sono ancora una studentessa a tutti gli effetti, quindi obiettivamente mi sento anche un pochino inutile, perché più nient'altro posso fare, devo ancora impararne tanto, e mi sto domandando cosa... Se io fossi nei panni di questo o quest'altro, che decisioni prenderei, poi cosa farei, a che sacrifici sarei chiamata a fare. Questo lavoro che voglio fare è importante, e mi sto facendo anche qualche domanda, e sto facendo qualche riflessione. Tu mi parli, io ti guardo, come se fossi su un altro pianeta. Siamo così diversi, così distanti, che non so più nemmeno chi ho davanti. Puoi confondere anche gli altri, sì, ma non me. Che potrei scriverti a occhi chiusi come il mio nome. Che ha un cuore così grande che puoi fare entrare tutte le persone che vuoi, come se nulla. Siamo fosse. Tutti chiamati a fare un sacrificio e più che mai davvero dobbiamo capire che non siamo isolati. Ogni nostra azione c'è una controazione. Quello che faccio oggi non si riflette solo su di me, ma anche sugli altri. Quindi sarebbe importante se passasse un po' questo senso, un po' di responsabilità, ok? E quindi io sono responsabile, ok, di me, ma devo anche stare attento perché sono responsabile in qualche misura anche per gli altri. Dove sei? Stavo cercando di vederti in mezzo a tutta questa folla. Lo riconoscerei il tuo nome tra quasi 8 miliardi di persone. Dove sei? Dovrei tornare a casa adesso, ma se non ci sei non ho voglia. Yeah, sai che lo riconoscerei il tuo nome tra quasi 8 miliardi di persone. Quanto è importante la scuola a Iomide? Perché in questo momento in cui per fortuna i ragazzi vanno ancora a scuola, però abbiamo assistito a periodi in cui c'era la didattica a distanza, non tutti i bambini hanno un collegamento in casa wifi, non tutti avevano la tecnologia. L'assenza della scuola quanto può essere invalidante per crescere di pari passo nell'istruzione quanto gli altri che hanno più possibilità magari? La scuola, e per quello che ha rappresentato per me, è stato molto importante. Penso in questo momento, se fossi una ragazzina appena arrivata in Italia che deve conoscere, deve capire, ancora disorientata, trovare una situazione in cui non ho nessuno attorno che mi possa spiegare, trovare una situazione così, il Covid penso sia veramente tantissimo destabilizzante. Purtroppo questa situazione ha evidenziato le disparità che non ci fossero, c'erano, ma proprio le ha evidenziate ancora di più. Spero che sia comunque una sensibilità su questa cosa, perché questi ragazzi davvero hanno bisogno di stare a scuola, di stare insieme, perché la scuola non è soltanto il imparare la matematica, ok, l'italiano, la storia, il geografia, tutto quello che vuoi, ma anche imparare a vivere in comunità, a rispettare le regole, a capire come si lavora in gruppo. È un bel strumento di integrazione davvero. E poi finisce sempre così, che poi finisce sempre sì, e poi finisce sempre così, non ci si vuole più bene. Dove sei? Stavo cercando di vederti in mezzo a tutta questa folla. Lo riconoscerei il tuo nome tra quasi 8 miliardi di persone. Dove sei? Dovrei tornare a casa adesso, ma se non ci sei non ho voglia. Yeah, sai che lo riconoscerei il tuo nome tra quasi 8 miliardi di persone. Della Nigeria a Iomide, che ricordo ha adesso? Poi magari è ritornata in Nigeria, no? Immagino in vacanza. Però che ricordo ha della sua infanzia? In questo momento è un argomento per me molto doloroso. È proprio difficile per me parlarne. È una cosa che mi spezza il cuore. Quindi i ricordi che ho sono della mia infanzia, sono, a dire la verità, molto sbiaditi, perché non sono neanche più tornata in Nigeria da quando sono partita, per tantissimi motivi. Da qualche tempo a questa parte sento un po' una sorta di richiamo di casa, voglio conoscere di più della mia cultura, perché conosco tanto della cultura, sono cresciuta in Italia, conosco tanto della sua storia, ci vivo, lo respiro tutti i giorni, ho la fortuna anche proprio, considero una bella fortuna di essere biculturale, quindi ho anche un'altra, neanche metà di me, perché c'è un'altra, va bene, un'altra parte di me che è sempre nigeriana, siccome una parte italiana, anche una parte nigeriana, E quindi vorrei conoscerti più e sento un po' questo richiamo di casa, e in questo momento quello che sta succedendo mi sta veramente solo spezzando il cuore. Per chi non fosse aggiornato, in queste settimane ci sono delle proteste molto importanti dei giovani della Nigeria contro il governo, contro la corruzione. Ci sono stati anche decine di morti e questi giovani denunciano la corruzione e vogliono un cambiamento in qualche maniera, no? Sì. E, è questo che, di cui stiamo parlando, Ayomide. Ed è questo il dolore che prova. In Italia parliamo della Costituzione, ok? E abbiamo una bellissima Costituzione e si parla di saperla, di viverla, di difenderla e di ricordarla. Noi dobbiamo ancora costruire una Costituzione, capito? Cioè, la Costituzione c'è sulla carta, ma è come se non ci fosse. E quindi questi sono... Sono quasi i momenti del risorgimento nigeriano. Dobbiamo costruirlo ancora la Costituzione. Davvero. Ci sono anche proteste contro la Repubblica Democratica. Esatto, ci sono proteste anche contro la SARS, questa polizia, forze speciali sì, e polizia. Sicuramente, ma soprattutto contro proprio è proprio una siamo arrivati al limite di questo clima veramente di corruzione che tutto uccide i sogni dei giovani, uccide tutto. Tutto, fa terra bruciata soprattutto dei sogni dei giovani e fai non può andare avanti se i suoi giovani sono arresi, non sanno a che parte girarsi. Tu mi parli, io ti guardo e prendo il volo sopra questa sedia perché ho problemi di attenzione ben oltre la media. Stavo in missione nello spazio ma abbiamo un problema. Posso sbagliare tutti quanti, sì, ma non te. Sei programmata per risolvere la confusione, per far sembrare così stupide le mie parole quando cerco di tenerti qui. Torniamo un attimo alla sua famiglia. Abbiamo parlato tanto della mamma e mentre il papà è rimasto sullo sfondo. Papà, che è una figura affascinante. Anche papà è stato importante, anzi, per la prima metà dell'infanzia è mancata la mamma, la seconda parte dell'adolescenza, tra virgolette, mancava il papà. Lui è un geologo minerario ed è anche un pastore, un uomo di fede, un uomo di chiesa. Esatto. E lui quindi faceva la spola con l'Italia e la Nigeria per questioni lavorative. Aveva comunque un lavoro che non si sentiva di abbandonare e ricominciare in Italia, anche perché ricominciare in Italia a fare il geologo è abbastanza difficile, non dico che era abbastanza impossibile all'epoca, ma anche adesso, ma praticamente. E anche queste sono state delle scelte difficili, non sono stati presi a cuore leggero, però insomma la mia vita è andata così, vedevo papà due volte all'anno se andava bene, con qualche mese, e poi dopo sapevo che tornava in Nigeria, poi dopo so che cercava di tornare e stare con noi almeno nelle parti importanti, di esserci per Natale, di esserci per feste importanti, avvenimenti importanti, però insomma. Però adesso da qualche anno a questa parte è in pensione, non è un geologo minerario, è in pensione, e fa il pastore a tutti gli effetti, fa il papà a tempo pieno e sta in Italia. Come se nulla fosse, ho il viso aperto, pieno di tagli. Non è un cielo stellato ma i miei denti a terra. Dirti che ti amo è un volo dal secondo piano, un incidente in bici contro un carro armato. Oh, e tu sei bravo a farmi male, a farmi la guerra, a dimenticarmi a casa quando sei di fretta. E se ti stringo forte i polsi è per tenerti qui, per vedere se sei ancora viva quando sei fredda. Dove sei? Stavo cercando di vederti in mezzo a tutta questa folla. Lo riconoscerei il tuo nome tra quasi 8 miliardi di persone. Dove sei? Dovrei tornare a casa adesso, ma se non ci sei non ho voglia. Yeah, sai che lo riconoscerei il tuo nome tra quasi 8 miliardi di persone. Grazie a Ayomide, grazie a tutti voi per essere stati all'ascolto. Vi do appuntamento domenica prossima, sempre alle 14, sempre su Radio 24. Buona domenica a tutti da Valentina Furlanetto. Ciao.